L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Un viaggio nelle cucine italiane. Quattro ristoratori in sfida. Una sola chance per presentare la propria attività agli avversari. Quattro categorie da valutare. Location. Tavoli e sedie nere. La sala della famiglia Adams. Menù. Che è successo? A me hanno ammazzato un raviolo. Servizio. Conto. I nostri prezzi sono questi. Prendere o lasciare. E un voto da assegnare da 0 a 10 per ogni categoria. Chissà se sarete onesti. E se la location fosse casa nostra? Ben ritrovati da Anna Migliorati. Che ne dite se parliamo delle feste? Feste con tutto il bagaglio di cenoni e pranzi che faremo, o meglio che non faremo. Se vogliamo vederla con ottimismo, avremo a gennaio probabilmente meno chili da smaltire. Però cosa c'è dietro le tavole delle feste? Chef e ristoratori che spesso hanno tenuto accese le cucine per asporto in questa seconda ondata si preparano non a chiudere ma a portarceli a casa i loro menù. Anche i grandi ristoranti stellati che mai, diciamocelo, avrebbero pensato di farlo. Allora, non sto qui io ad elencarveli, ma saluto invece il primo ospite di oggi. La nostra storia ci porta a Imola, al San Domenico di Imola, storico due stelle Michelin fondato da Gianluigi Morini, che oggi vede impegnato in cucina lo chef Massimiliano Mascia, alle prese col pranzo di Natale da portare a casa. E allora, benvenuto. Grazie a voi. Come funziona innanzitutto il delivery di un pasto completo? Allora, abbiamo fatto questa primavera per Pasqua per forza di cose ed è andato molto bene, ha avuto molto successo e quindi avevamo pensato di riproporlo anche per Natale. A due o tre punti base, cioè devono essere cose facili da finire di cuocere a casa. Noi non possiamo portare ovviamente i tortellini in brodo cotti a casa, però noi serviamo i tortellini in una confezione, il brodo fatto da noi sotto vuoto in un sacchettino a parte e poi facciamo un vademecum di istruzioni in cui c'è scritto come procedere per finire il piatto. Quindi ho fatto l'esempio dei tortellini, ma c'è il cotechino con le lenticchie, quindi il cotechino già cotto, tagliato a medaglioni, messo sotto vuoto, e la zuppettina di lenticchie da scaldare a parte, eccetera, eccetera. Quindi un antipasto freddo di salmone affumicato con la crema acida al caviale. Sta facendo venire l'acquolina in bocca. Come è andata a Pasqua? Sono riusciti i clienti a finire la cottura? Sì, assolutamente. C'era uno dei nostri piatti, forse il nostro piatto più conosciuto, che è l'uovo in raviolo. Ovviamente era già fatto, era solo da cuocere e finire, e io ho preparato un video tutorial che ho messo sulle nostre pagine social. Tanti hanno messo proprio il telefono sul piano cottura lì vicino, quando io buttavo giù l'uovo in raviolo loro lo buttavano in acqua, quando io lo scolavo loro lo scolavano, e quindi il tempo di cottura era quello semplicemente. Avevo visto anche grandi ristoranti anche insomma di un certo peso passare al delivery. Non è più solo il delivery della pizza, che è quello che noi conoscevamo. Quanto aiuta tutto questo dal punto di vista economico e quanto invece nel mantenere l'affezione e l'abitudine? Allora, sicuramente conta molto di più nel mantenere affezione e abitudine. Se lo dovessimo fare solo per un aspetto economico, devo dire la verità, faremo completamente un altro lavoro, perché non pensate che questi ristoranti siano, diciamo così, a livello economico dei paradisi. Ecco. Qui c'è soprattutto la passione che ci guida. Poi ovviamente siamo imprenditori e quindi facciamo tornare i conti. Il delivery è tutto un altro discorso, il delivery serve proprio per mantenere vivo il contatto con col proprio ospite. Il che mi fa presumere che per voi sia un'esperienza che poi si chiuderà quando si chiuderà l'emergenza, o no? Sì, assolutamente. Cioè, il delivery non è assolutamente niente che possa a livello emotivo, di trasporto e di passione avvicinarsi al nostro lavoro. Noi abbiamo bisogno dell'adrenalina in cucina per sentirci vivi e per sentire che stiamo facendo il nostro lavoro. Grazie allora per essere stato con noi. Grazie mille a voi e buon Natale a tutti. E col Natale da passare a casa con una tavola per pochi, cosa faremo? Mangeremo meno, spenderemo meno, probabilmente anche mangeremo cose diverse. Allora un benvenuto anche allora Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti. Grazie. Voi avete fatto qualche conto, giusto? Sì, era prevista già comunque un taglio del 30% rispetto al menù dello scorso anno, ovvero sia una spesa per famiglia individuata in 82 euro complessivi. Si è detto, per banalizzare, ma neanche troppo, una portata in meno. Chiaro che il fatto che ci siano meno gente, meno persone attorno al tavolo, significa anche ridurre probabilmente lo sforzo organizzativo e lo sforzo culinario, chiamiamolo così. Sta di fatto che questo meno 30% probabilmente verrà ad avere delle declinazioni specifiche, con ci si aspetta un meno 15% sullo spumante, un meno 4% sul panettone, e addirittura ci sarebbe un crollo dello champagne con un meno 80%. Tutto questo senza contare che ovviamente si parla di un 30%, voi avete anche calcolato la quota di chi proprio il pranzo di Natale non lo farà, perché oltre alla crisi sanitaria c'è anche la crisi economica. Che tocca, calcolavamo circa 4 milioni di italiani, che comunque. Poi c'è da considerare un altro aspetto, che è l'aspetto relativo ai consumi extradomestici, più delle cene non effettuate fuori casa, viene a computare complessivamente 30 miliardi di euro in meno. Significa che è aumentata un po' la spesa per i consumi domestici, ma questa non compensa assolutamente quello che si è perso con la chiusura di ristoranti, bar, pizzerie e anche agriturismi, che sono oltre 24.000 nel nostro paese. Non si compensano. Sì, non si sono compensano. Diverse anche come prodotti. Innanzitutto non si compensano, anche perché nella spesa extradomestica abbiamo anche i turisti che sono venuti completamente a mancare, nel senso che i vini di qualità, i grandi formaggi, i grandi prosciutti, via discorrendo, i grandi salumi, ma anche l'ortofrutta di maggiore qualità, molto spesso è consumata appunto nella ristorazione di un certo livello. Quindi il fatto che si perda questo significa anche perdere una gamma medio-alta del nostro agroalimentare. E tornando ai pranzi delle feste, quando non lo consumo fuori me lo concedo nelle tavolate con i parenti e gli amici alle feste, cosa che non farò, e quindi probabilmente andremo su una gamma più bassa anche per i cenoni. Sì, probabilmente sì, perché solitamente è anche uno status symbol, cioè si cerca di mostrare agli amici o ai parenti così, non soltanto cosa ci possiamo concedere, ma anche far assaggiare loro cose che magari non conoscono o che non sono abituati a consumare. È un po' una sorta di riscoperta di quello che accadeva nelle nostre campagne quando eravamo più poveri, che nelle festività comunque si tirava fuori la bottiglia buona, si tirava fuori il salame, quello fatto bene, eccetera, eccetera. È un po' questo retroterra culturale che nelle festività veniva esaltato, che oggi probabilmente potrà avere, come si diceva, una riduzione nei contenuti. E andiamo a vedere davvero che succede nelle nostre case. Piccola economia nel carrello della spesa. E come sempre col carrello saluto Marco Colombo, Irigroup, bentornato. Buongiorno Anne, buongiorno a tutti. Allora, la domanda al contrario questa settimana: cosa non stiamo comprando in queste feste? Cosa non c'è nel nostro carrello? C'è un forte calo di tutti i prodotti da ricorrenza tipici del Natale. I panettoni, i pandori e i torroni, e tanto per fare un esempio, hanno avuto dei tassi decrescenti rispetto all'anno scorso tra i 10 e i 15 punti. Prodotti diciamo più occasionali come le praline, come i cioccolatini, stanno registrando dei numeri sicuramente più bassi rispetto a quelli dell'anno scorso. Il calo del 12% delle praline è un segnale. Cosa stiamo comprando invece? Continuano a crescere i prodotti per la preparazione dei cibi, quelli che avevamo imparato a conoscere durante il primo lockdown, tutti i prodotti che servono per aperitivi o incontri, per quanto limitati in casa. Gli aperitivi alcolici stanno crescendo del 31% durante il periodo di lockdown autunnale, le birre crescono di oltre il 20% e parimenti i prodotti che fanno parte del rito dell'aperitivo, le patatine, popcorn, struzzi, anche ce li facciamo in casa. Questa è una tendenza che avevamo già visto. Il pesce, ad esempio, che è uno dei classici alimenti della vigilia? La sensazione che noi abbiamo è che quest'anno i consumatori si rivolgeranno molto più ai negozi di vicinato, alle tradizionali pescherie o macellerie per chi per i giorni del Natale dovesse scegliere la carne, piuttosto che alla grande distribuzione. Quindi il recupero del valore del negozio di vicinato, in particolare dei negozi specializzati. Grazie allora intanto. Ci fermiamo qui, magari ci risentiamo con la spesa del prossimo anno. Vediamo cosa succede, ci racconterà invece il 2021. Sì, intanto auguri a tutti. Grazie, buone feste anche da parte mia. Sono comunque feste. Noi ci ritroveremo con l'economia delle piccole cose anche sabato prossimo, anche se sarà il 26 dicembre. Proveremo anche a tirare le fila sui regali. Ci saremo poi fino al 6 gennaio tutti i giorni alle 13.30 con storie vecchie e nuove di economia delle piccole cose. Vi aspetto come sempre anche con i nostri podcast. Intanto un saluto da Anna Migliorati. Qua. No, fai così, guarda, prendi questo pezzo di pane, taglialo così e dentro ci metti salame, uova, tarallucci, che io piano piano me lo sgranocchio.